qual'altro cieco mi asconde. A miei rimorsi io t'ho tradito, bradamante mia vita, tornati al cuore o lagrime e lavate la macchia degli errori. Macchia forzata d'involontario error non passa al cuore, segna il volto però un gran rossore. Che dirà generosa, illustre figlio, l'alta virtù di nobile alma dita? Bradamante mio bene, io t'ho tradito.